Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Bentrovati come tutti i sabati insieme voi all'ascolto, parliamo di sfide educative. Oggi più che di sfida vorremmo e dovremmo usare la parola questione educativa, però direi andiamo con ordine. Intanto saluto Alberto Pellai, che è qui davanti a me, medico e ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta e soprattutto papà ufficiale di Questa casa non è un albergo. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, quante cose, se ognuna di queste cose è una responsabilità io non riesco ad andare a dormire. Oggi partiamo dall'ascolto di una mail su una questione, proprio una questione educativa che ha fatto molto discutere in questa settimana, perciò vi inviteremo a dirci cosa ne pensate, se siete pro o contro. Allora, io direi di partire dall'ascolto proprio di una mail di questo genitore che ci ha scritto in relazione ad un progetto promosso nelle scuole lombarde che, come diceva Alberto, ha fatto molto discutere. Ascoltiamo la mail. Come padre di un ragazzo di 16 anni, sono totalmente contrario al fatto che nelle scuole superiori lombarde sia possibile per un adolescente aderire a un progetto educativo che prevede percorsi ginnico-militari ed esercitazioni di tiro con l'arco e di sparo con le pistole ad aria compressa. Mi domando perché chi ha potere di decidere ha pensato di approvare una simile proposta. Non credete che sia sempre e comunque pericoloso mettere tra le mani di un adolescente una pistola, anche se ad aria compressa e anche se in un contesto educativo? Vorrei il vostro parere. Questa mail si riferisce al progetto Allenati per la vita, è un corso teorico e pratico valido come credito formativo scolastico, attualmente è la sua quarta edizione, quindi un po' ci ha colpito anche il fatto che se ne sia parlato solo per la prima volta solo quest'anno, è rivolto agli studenti delle scuole superiori ed è frutto di un protocollo tra l'ufficio scolastico lombardo e il comando regionale dell'esercito, è stato sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e della Difesa, è un progetto effettivamente particolare. Noi abbiamo un po' visto i siti dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo che nelle varie regioni lo hanno promosso. Vi facciamo ascoltare una scheda che ha riassunto un po' le attività effettuate l'anno scorso dal distretto di Voghera. Le lezioni, svolte alla sera e nei giorni festivi, riguardano nozioni di primo soccorso, Convenzione di Ginevra, Combat Trauma, Topografia e Orienteering, Sopravvivenza, Riconoscimento armi e mezzi, quali aerei e carri delle forze armate italiane e straniere, Superamento ostacoli, Addestramento formale. Dopo una prima fase teorica e alcune prove pratiche, quali la discesa in corda doppia dal ponte di Godiasco e tiro con armi da fuoco al poligono di Stradella, i ragazzi hanno partecipato ad una gara di pattuglia organizzata per loro dagli ufficiali della sezione di Voghera. In questa competizione, strutturata in modo sportivo, hanno imparato cosa significa attenersi ad ordini che vengono consegnati alla squadra, individuare sulla mappa le coordinate prefissate, raggiungere gli obiettivi, affrontare prove di carattere militare sia pratiche che teoriche. Tutto comporta uno stress fisico e mentale con cui i componenti della pattuglia si devono confrontare. E questa scheda che ritrovate sul sito di pertinenza www.unucivoghera.org ci offre lo spunto per discutere, parlare, comprendere perché il progetto ha suscitato un grande dibattito. Come avete sentito anche voi nella descrizione appena trasmesso, Allenati per la vita prevede anche esercitazioni presso un poligono di tiro. Sì, è stato molto dibattuto il fatto che i ragazzi, gli studenti possano esercitarsi con armi ad aria compressa. Si è aperto un secondo dibattito. Qualcuno ha domandato se è giusto inserire all'interno della scuola pubblica iniziative che hanno forse più uno stile da collegio militare. Noi abbiamo deciso in questa trasmissione intanto di sentire il vostro parere e cominciate a scriverci e poi di sentire molte diverse voci. È proprio importante avere tutte le posizioni in gioco, per cui salutiamo proprio il nostro primo ospite che è il tenente Paolo Montali, è il referente dell'UNUCI per questo progetto. Buongiorno tenente. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, e io voglio salutare anche il professor Giuseppe Di Gimignani. Buongiorno professore. Buongiorno a voi tutti. Dirigente scolastico dell'Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo, fondatore dell'istituto che ha 20 anni ed è una realtà molto riconosciuta a livello nazionale, tanto che il 25% dei suoi 500 studenti frequentanti vengono da territori, no? Esatto. Esterni, quindi una bella realtà. Tenente Montale, questo è un progetto che da alcuni anni è nelle scuole lombardi, quest'anno sta generando un grande dibattito. Quali sono le specifiche caratteristiche del progetto? Quali sono i suoi punti di forza? E lei, come rappresentante dell'UNUCI, vede anche le criticità che sono in questi giorni dibattute su tutti i media? Beh, allora, per quanto riguarda, diciamo, le specificità di questo progetto, di questo corso, di questo percorso formativo che noi abbiamo messo in piedi per i ragazzi delle scuole superiori, sostanzialmente noi tendiamo a sottolineare, a promuovere quei valori che sono comuni nell'ambito sportivo, soprattutto l'impegno di gruppo, lo spirito di corpo e di appartenenza. Sicuramente anche nello spirito agonistico, però rivolto a una condivisione di un'esperienza e di un momento, soprattutto indirizzando i ragazzi verso le tematiche di quelle che sono l'impegno sociale e l'impegno nell'ambito del volontariato, il senso di responsabilità, quindi rafforzare questo senso di responsabilità e la collaborazione fra i membri della stessa squadra, per arrivare, come si diceva, a raggiungere gli obiettivi che si hanno. In questo caso durante le gare che organizziamo, perché è tutto poi concluso con una gara di carattere sportivo, appunto, sì. Ma che poi sono anche gli impegni e gli obiettivi che uno deve raggiungere anche nella vita, no? Sostanzialmente. Professore, nella sua scuola il progetto c'è e resterà operativo. Come mai lo ha proposto ai suoi studenti? Io penso che certe volte, adesso non vorrei fare un po' così una polemica, però insomma, non riesco a capire tutte le cose che vengono fatte, che sono sicuramente positive per i ragazzi, sì. Poi si va a trovare spara, ma lo spara fa parte di un'attività di sport che c'è alle Olimpiadi, c'è dappertutto, quindi non vedo negatività. Io ho visto solo in questi 4 anni che i miei ragazzi hanno partecipato a queste gare solo positività, con entusiasmo, cioè sono valori veramente spesi poi nella vita civile, è coinvolgente l'attività di gruppo. Io nella scuola oggi si parla sempre di bullismo, nella mia scuola insomma, ecco, ho sempre cercato io di lavorare sul gruppo, perché il gruppo permette di evidenziare il contrasto al bullismo, quindi sono tutte forme che grazie al lavoro di squadra determina l'aumento dell'autostima, cioè ci sono tanti quei valori positivi, io non vedo negatività come dirigente scolastico, io ho 500 ragazzi che ho il piacere di dirigere, ma vedo solo positività, perché c'è questa proprio l'unione che ne forma, poi insomma c'è la parte del primo soccorso, la rianimazione, sono tutti valori che veramente sono importantissimi poi nella vita. Ha fatto però molto molto discutere il fatto che i ragazzi vengano anche portati al poligono di tiro, tra l'altro c'è scritto per esempio Manu da Como: insegnare ad usare le armi agli studenti è gravissimo, e vorremmo tra l'altro sentire il vostro parere di genitori all'ascolto. Se vostro figlio vi raccontasse che nella sua scuola è entrato questo progetto, voi come reagireste? Se vi dicesse: io ho intenzione di iscrivermi a questo progetto, voi che cosa gli diresti in generale, come la pensate? Rilancio la domanda sia al tenente Montali che al professor Di Gimignani, cioè il fatto che nel vostro progetto effettivamente è prevista un po' anche un'idea militare dell'approccio al tema della giustizia, c'è questo passaggio al poligono di tiro e c'è questa gara finale organizzata in pattuglie, che è un po' l'aspetto critico su cui molti poi vi hanno sollevato critiche. Voi come reagite a questo genere di critiche? Iniziamo dal tenente Montali. Tenente. Sì. Allora, per quanto riguarda il discorso del tiro, intanto il tiro è una disciplina ed è visto assolutamente come tiro olimpionico, quindi come utilizzo di attrezzatura sportiva di un certo tipo, chiaramente, che consente di lanciare un proiettile, in questo caso contro un bersaglio, ma dove assolutamente viene stressato al massimo il concetto del rispetto delle regole. Sì. Lo sport del tiro è uno sport dove l'autocontrollo deve essere al massimo livello, quindi è fondamentale in questo senso, è educativo in questo senso, dal punto di vista di avere sempre sotto controllo la propria situazione, sia psichica che fisica. Ed è questo il punto che noi andiamo a toccare in modo principale, oltre al discorso del rispetto delle regole, perché si ha in mano un attrezzo che, benché un attrezzo sportivo, come voi giustamente avete detto, comunque è un'arma e di conseguenza può causare dei danni veramente seri. Allora, l'insegnare ad utilizzare, o comunque più che ad utilizzare, a rispettare le regole, questa è la cosa fondamentale, e ad avere autocontrollo, è questo l'aspetto fondamentale del corso, diciamo, che poi non è un corso, è una sessione di un'ora al tiro a segno, con il supporto da parte di direttori del tiro a segno nazionale, che quindi sono personale addestrato, preparato e che è in grado di dare l'educazione giusta per questo tipo di sport. Vorrei ricordare solo un'ultima cosa, sì, che a livello italiano e questo anche a livello internazionale, il tiro in ambito tiro a segno, per esempio con l'aria compressa, è possibile fin dall'età di 11 anni. Non vedo problema che ragazzi di 16 anni imparino ad avere un proprio controllo della propria fisicità e delle proprie psiche in questo ambito. Professor Di Gimignani, lei ha detto che attraverso anche questo percorso riesce in qualche modo a contrastare il fenomeno del bullismo, proprio agendo sulle dinamiche buone del gruppo. Sì, ed è stato uno dei momenti più importanti della mia scuola, che ho attivato da 20 anni a questa parte, proprio il gruppo, e questa è la formazione, come diceva il tenente prima, insomma, ecco, quindi usare, conoscere le armi in maniera educativa, insomma, molte volte succedono incidenti in casa, insomma, noi dobbiamo cercare, come diceva pure lui, si vendono le armi nei negozi, quindi perché non istruire il ragazzo? Ma cioè non è che noi abituiamo il ragazzo alla violenza, noi bisogna a conoscere, quindi a questo sport, avvicinarsi a questo sport. Non è che avviciniamo il ragazzo alla violenza o meno. Quindi io non. E poi, ecco, ripeto, come diceva lei giustamente, il bullismo è fatto dalla squadra, quindi quando in qualsiasi attività che c'è il gruppo per me è vincente, perché il gruppo unisce le forze, sia più debole che più forte, e quindi questa compattezza ne attenua il bullismo. Io sinceramente adesso non vorrei creare una polemica, però nella mia scuola non ci sono sicuramente atti di bullismo. Io vorrei però leggervi alcuni dei messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Intanto invito gli ascoltatori a chiamare il nostro numero verde per intervenire in diretta all'800-240024. Alberto. Effettivamente, siccome noi stiamo chiedendo di mandarci nel nostro sondaggio messaggi a favore oppure contraria a questa tipologia di progetto, la gran parte degli ascoltatori che ci stanno scrivendo sono contrari, cioè loro scrivono: si promuove militarismo, squadrismo, di cui francamente possiamo fare a meno, pensate nelle zone più disagiate, insegnare a sparare, fare un favore alla criminalità. Credo che c'è proprio un aspetto per noi che ci occupiamo di prevenzione, legato al fatto che tutte le linee guida internazionali dicono che mettere nelle mani di un minore un'arma è fortemente sconsigliato. Ha proprio una serie, è chiaro che questo è un contesto educativo, quindi probabilmente viene anche insegnato che cos'è un'arma e cos'è l'uso responsabile. Ma io vorrei sentire il parere anche del prossimo ospite che ci ha raggiunto e che ringrazio. Buongiorno al professor Giuseppe Colosio. Buongiorno. No. Mi sente bene, professore? Sì, la sento benissimo. Direttore scolastico generale per la Lombardia. Sì. Voi siete la regione che ha sottoscritto il protocollo d'intesa con l'UNUCI per l'introduzione del progetto nelle scuole. Quali sono state le motivazioni che vi hanno portato a generare questa collaborazione, questa proposta alle scuole superiori della nostra regione? Il protocollo è stato sottoscritto col comando Esercito Lombardia ed è il rinnovo di un protocollo che è iniziato sperimentalmente nel 2005 e poi è risiglato per la prima volta in maniera organica nel 2007. Sì. Le ragioni sono, prima di tutto, perché si tratta di un'attività integrativa su base volontaria, comunque con grande controllo da parte della scuola, perché non viene appaltata all'esterno, che tende a così creare delle situazioni di consapevolezza, di autocoscienza e delle situazioni di collaborazione in gruppo. Cioè il problema è di far sì che l'alunno abbia delle occasioni per lavorare su se stesso, oltre che lavorare nella cooperazione con gli altri. Un'attività che abbiamo visto tra l'altro così molto apprezzata, non solo dai maschi ma anche dalle femmine, che sono, formano delle squadre così molto, direi, energiche, e ci sta dando dei buoni risultati. Quindi c'è stata una polemica, credo, veramente fuori luogo, perché tutto quello che è stato scritto non ha proprio nessunissimo fondamento, a parte che l'esercito è un organo costituzionale, non è un qualcosa così di posticcio. E questo rientra tra l'altro in una cooperazione ampia, che non è soltanto con l'esercito, con moltissime altre organizzazioni, associazioni, e deriva dal fatto che la scuola oggi non può essere più concentrata tutta su se stessa, ma ha bisogno di raccordarsi con la più ampia realtà esterna. Tra l'altro, oltre a questo, c'è tutto l'orizzonte di cittadinanza e Costituzione, c'è l'idea così di contrastare i fenomeni e comportamenti così scorretti, sia personali che nei confronti degli altri, c'è, direi, un'idea civile, c'è anche un aspetto letterario, quindi è un protocollo composito, in cui il militarismo è soltanto così una parola che viene utilizzata, perché si tratta così di una collaborazione con l'esercito. Allora, noi salutiamo il tenente Montali, il professor Di Gimignani, il professor Colosio. C'è appena arrivato un SMS che ci dice: ma solo ospiti a favore avete invitato. In realtà abbiamo adesso in linea con noi Francesco Anfossi, che è il giornalista di Famiglia Cristiana, che ha pubblicato sul web famigliacristiana.it l'articolo da cui poi è generato questo enorme dibattito. Francesco, buongiorno. Ciao, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Francesco, scusa, mi dici subito le reazioni che più ti hanno colpito dopo la pubblicazione sul sito di Famiglia Cristiana del tuo articolo? Beh, a me hanno colpito innanzitutto la velocità, oserei dire mercuriale, con cui si è diffusa la notizia. Non c'era mai successo, praticamente 40.000 click in poche ore, una roba impressionante. La polemica su questa vicenda è talmente infondata che praticamente abbiamo avuto il record dei contatti sul nostro sito online e se ne è parlato in tutta Italia, quindi evidentemente qualche elemento di criticità in questa iniziativa, di cui vorrei premettere che è fatta e data per assodato sia la buona fede di chi l'ha organizzata, sia la professionalità di chi la organizza, perché è evidente che l'esercito non è in discussione, l'istituzione dell'esercito non è in discussione, tantomeno da Famiglia Cristiana, che è un giornale che ha sempre seguito sia le attività dell'esercito sia le sue missioni di pace in Bosnia, in Libano, in Afghanistan. È appena tornato un inviato recentemente per raccontare quello che fanno meritoriamente quei grandi professionisti che sono i militari italiani. Detto questo, è evidente che ci sono elementi di criticità e che ha scatenato polemiche, perché evidentemente introdurre le armi a scuola è una questione assolutamente discutibile, tanto più organizzare un'attività ludica di tipo militaresco all'interno, ovviamente all'esterno, insomma, dell'autonomia scolastica. Tanto è vero che chi ha firmato quel protocollo la prima volta, voi sapete che i protocolli sono una sorta di dichiarazione di intenti, poi chi è deputato ad applicarlo poi può cambiare in corso d'opera le cose. Dicevo che il ministro della pubblica istruzione Fioroni, il ministro del governo Prodi, intervistato noi, ha detto: no, guardate che io quella roba lì non l'ho mai neanche concepita, io avevo concepito un protocollo per l'educazione alla pace che avrebbe dovuto avvenire attraverso addirittura la collaborazione con i frati della Basilica di Assisi, quindi un po' diverso, ma per valorizzare tutte le iniziative a difesa della libertà, della giustizia, dei diritti umani, della pace, della Costituzione. Cosa vuol dire che l'esercito è costituzionale? È evidente che è costituzionale, ma non è che possiamo mandare i ragazzi di 14 anni, 15 anni in Afghanistan a combattere insieme alle pattuglie dei militari veri, no? Francesco, è evidente fermiamoci, che questa è una questione di professionalità, e allora è giusto, come abbiamo fatto, perché poi noi non è che abbiamo scritto un articolo durissimo nei confronti di queste idee, abbiamo messo in rete questa circolare, l'abbiamo spiegata, E ne abbiamo discusso. Detto, professori, che ne pensate? Genitori, cosa ne pensate? E devo dire che il 90% dei professori e dei genitori sono contrari a questo tipo di attività ludica all'interno dell'esercito, che ha il dovere di essere reclamizzato attraverso iniziative di conoscenza, di orientamento, di conferenze, di promozione dell'esercito. E abbiamo tantissimi messaggi, si dividono tra pro e contro. Per così farvi sentire un po' l'atmosfera, ve ne leggo due. Temo si tratti soprattutto di un invito alla vita militare, sono contraria. Mi sembra una scelta prematura, viste anche le conseguenze che comporta per la vita. Non sarà questo a insegnare il rispetto delle regole o a contrastare il bullismo. Marisa, mamma e insegnante. Un altro ascoltatore invece ci scrive: le più grosse ditte mandano i manager a fare i corsi del genere, li chiamano team building, non vogliono formare terroristi ma leader che sanno cosa vuol dire condurre un gruppo e cosa chiedere al capo per farsi condurre. Allora io intanto sentirei anche la voce di alcuni ascoltatori. Abbiamo Filippo che ci chiama da Roma. Filippo, sì. Buongiorno. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua. Pronto? Sì. No, secondo me la cosa di insegnare, insomma, di cameratismo al liceo è completamente sbagliato. Invece di eliminare il bullismo, si inseriranno differenze ancora più grandi, come appunto quelle che sussistono all'interno di una caserma, come quelle che sussistono all'interno di una caserma dove poi scaturisce il nonnismo, vengono emarginate alcune persone e... nell'insieme di tutto questo i più deboli, diciamo, ne fanno le loro spese sempre di più. Il bullismo è una cosa marginale, insomma, è l'unione, non è vero che può, secondo me, dare insomma, unire i ragazzi. I ragazzi possono essere uniti soprattutto da altre cose, la musica, da insomma un'attività sportiva, il gruppo unita, insomma, da un professore che sia capace di dire queste cose. Ecco, questo... Grazie Filippo. Quindi Filippo direi contrario. Alba da Roma, vediamo che cosa pensa. Buongiorno. Buongiorno. E io invece sono favorevole, sono anche un po' di parte, nel senso io sono figlia di un ufficiale dell'esercito, anche se mio padre non c'è più da parecchi anni. Ho anche nella mia vita visto da vicino la vita militare, vissuto anche in caserma durante gli spostamenti. Sì. Io so che, e anche per come è stato spiegato questo progetto da chi è intervenuto precedentemente, che comunque in un'epoca nella quale ci lamentiamo che i nostri ragazzi non sanno attenersi alla regola, alla disciplina, non sanno autoregolamentarsi perché comunque sono in poco consapevoli di se stessi a livello di capacità fisiche, regole morali, probabilmente, e peraltro ci lamentiamo che abbiano una scarsa coscienza sociale, io credo che un'iniziativa di questo genere possa essere d'aiuto. Essere d'aiuto, educare alle regole, alla disciplina, alla consapevolezza di sé, a stare in gruppo e, da quello che ho sentito, anche a diciamo a vivere in una società complessa, tant'è vero che si diceva vengono date anche comunque delle nozioni di pronto soccorso, di educazione civica e altro, quindi io non vedo perché essere contrari, come ho scritto anche peraltro in un messaggio. Penso che evocare militarismo, squadrismo e cose del genere sia solo frutto di fantasmi che abbiamo nella nostra mente più che grazie. Grazie Alba per essere intervenuta. Alberto. E adesso vorremmo sentire, abbiamo chiamato Fabio Croci, è la voce di un esperto, di un pedagogista appena pubblicato per Franco Angeli, Giocando con l'onestà, ci ha molto colpito il sottotitolo: giochi e percorsi didattici per sviluppare il senso delle regole e della legalità. Il sottotitolo direi è lo stesso obiettivo che ha il progetto Allenati per la vita. Quindi, dottor Croci, intanto buongiorno. Buongiorno, la buongiorno, salutiamo. Buongiorno a tutti. Lei cosa ne pensa? Ecco, ci dia un parere da esperto, guardando dall'alto tutte le voci che abbiamo ascoltato. Ma guardi, sicuramente ci sono delle analogie, almeno in termini di obiettivi formativi. L'unico punto però da approfondire a questo punto, non mi sembra tanto se l'obiettivo sia di per sé positivo o meno. Il punto è se le attività proposte, le metodologie impiegate effettivamente siano coerenti con gli obiettivi che ci si propone. Il nostro libro che lei ha appena citato sicuramente parla del senso delle regole, lo facciamo però proponendo di affrontare le regole in termini di come si costruiscono, come si condividono, si basa sulla discussione, sul confronto e quindi anche su cosa significa la trasgressione, le sanzioni, cosa succederebbe se non ci fossero regole. Diciamo un approccio un po' costruttivista. Quello che vedo, o perlomeno mi sembra di percepire dai documenti anche ufficiali di Allenati per la Vita, è che non si basa tanto sul capire il senso delle regole, ma piuttosto su un'imposizione. D'altra parte i valori militari direi che a livello indiscutibile sono gerarchia, obbedienza, disciplina. Quello che forse manca è proprio l'approccio critico. Quindi nella formazione della cittadinanza, i valori democratici, come anche le persone che mi hanno preceduto sostenevano che comunque fosse riconducibile il progetto, però dovrebbero essere un requisito essenziale anche nelle metodologie formative. Forse quello che manca in questo progetto, e d'altra parte a questo punto le polemiche sembrano essere giustificate anche per questo, è proprio che sembra non esserci un vero contenuto formativo nell'attività proposta. Il rischio è che sia quasi più una valenza ricreativa per chi vi partecipa e comunque col rischio che chi è già favorevole a una cultura militare si ritrovi ad avere delle conferme, chi ne è contrario sicuramente non cambierà la propria idea solo per aver partecipato a una di queste attività e quindi forse la proposta didattica è proprio povera in sé. Francesco, torniamo a te. Sì. Hai sentito i nostri ascoltatori, un pro e un contro, e il dibattito continua. Nel web veramente se la polemica è abbastanza accesa. Devo dire, tra l'altro, leggendo gli sms degli ascoltatori, che il 2/3 sono contrari al progetto. 1/3 però lo sostiene anche in modo molto vigoroso. Tu hai monitorato quello che è successo anche nel mondo web dopo la comparsa del tuo articolo. Ci racconti cosa vedi? Ho visto una letterale esplosione in rete della vicenda e questo mi ha fatto molto riflettere sulle magnifiche sorti e progressive della rete, cioè su come sarà anche il nostro lavoro in futuro. Mi ha fatto prefigurare proprio una visione da qui a pochi anni di come sarà il lavoro dei giornalisti a qualunque livello, di qualunque tipo, cioè la notizia non più come qualcosa di assertivo, di propositivo, ma come qualcosa che poi viene sminuzzato, tagliuzzato, assolutamente analizzato da tutta la rete, per cui cambia anche il nostro tipo di lavoro, che sarà un lavoro sempre più di analisi, di commento, di riflessione critica. È un mondo affascinante ma anche pericolosissimo, è assolutamente multimediale. Per esempio, alle persone che mi hanno preceduto nel dibattito suggerirei di dare un'occhiata al video sull'iniziativa, perché, ripeto, siccome è stata fatta assolutamente in buona fede e con tutti gli intenti pedagogici di chi l'ha organizzati, ci sono dei video sull'iniziativa a cura, adesso non ho bene capito se della Regione Lombardia, dell'UNUCI, dell'Unione degli Ufficiali in Congedo, che sono prestati a fare volontariamente questa iniziativa, del comando. Comunque ci sono dei video, erano in YouTube, qualcuno li ha tolti evidentemente perché spaventato del clamore che aveva suscitato l'iniziativa, ma noi l'abbiamo ripescato e quindi lo ritroviamo. E l'ha ripescato anche, lo trovate su Famiglia Cristiana, tra l'altro è un servizio del TG3, e lì si vede chiaramente che discipline assolutamente diciamo così serene, come potrebbero essere il tiro con l'arco. Mio figlio quest'estate nel villaggio vacanze dove eravamo ha fatto tiro con l'arco e noi ci siamo certo scandalizzati, certo. Ma il contesto è evidentemente un contesto di gioco di guerra. Allora io mi chiedo come possa, se effettivamente un gioco di guerra tra ragazzi delle superiori vestiti in mimetica, che si aggirano tra i boschi, che passano dai vari percorsi a ostacoli, che sparano con una carabina d'aria compressa che è più grossa degli studenti stessi, affiancati ovviamente dall'ufficiale che lo assiste, sia qualcosa che può aiutare il ragazzo a sviluppare una cultura all'insegna dei valori della pace, dei diritti umani. Francesco, della difesa, io devo salutarvi e quindi la discussione continua, le indicazioni e le informazioni al momento, no, sono queste, ne riparleremo sicuramente. Se volete che noi ritorniamo sull'argomento, scriveteci, essere benessere @radio24.it. Buona giornata.